Ritengo opportuno, corretto ed onesto affermare subito che la moneta battuta dai Longobardi durante la loro dominazione in Italia non ha ancora trovato a tutt'oggi una trattazione scientifica veramente convincente ed esauriente, benché il tema, per il fervore di studi che è venuto suscitando in questi ultimi tempi, induca a ragionevolmente sperare che questa trattazione non sia ormai lontana dall'essere proposta. Dal 1950 in poi, infatti, tutte le posizioni precedentemente assunte sono state fatte oggetto di una critica serrata, spesso demolitrice. La classificazione e le datazioni avanzate, proposte, spesso imposte dalla dottrina del secolo scorso e della prima metà del nostro secolo, sono state vagliate e in buona parte respinte in quanto gratuite. Così gli studiosi si sono trovati di fronte ad un campo, ad una materia nuova. Lo sforzo attuale è quello di trovare un assetto, una forma coerente a questa nuova materia. In una situazione di questo genere è inevitabile che tanti aspetti non siano ancora stati vagliati. Tra questi vi è quello della evoluzione figurativa della moneta nei circa 200 anni della sua emissione. E questo è l'aspetto che oggi intendo trattare, avvertendo subito, peraltro, che non si tratterà di una esposizione sistematica e completa, ma soltanto di una serie di note che spero potrà servire di base, accettabile oppure no, questo non ha importanza, per un ulteriore approfondimento di un'indagine che già a questo primo sondaggio si manifesta, a mio avviso, di vivo interesse. L'odierna dottrina ha anzitutto determinato che i centri di emissione della moneta longobarda in Italia sono tre: uno al nord, nella pianura padana, Austria e Neustria, divise fra loro dal confine dell'Alba; il secondo al centro della penisola, la Tuscia, odierna Toscana, con le città semiautonome di Lucca, Pisa e Pistoia; il terzo al sud con il Ducato di Benevento. Non risulta una emissione di moneta, almeno a carattere continuativo, nel Ducato di Spoleto, pur tanto potente, semiautonomo anch'esso e strategicamente importantissimo. Questo è un mistero che deve ancora essere chiarito. La monetazione beneventana può essere in questa sede ragionevolmente trascurata per un duplice ordine di ragione, perché inizia soltanto sul finire della dominazione e perché per fattori ambientali non poté mai svincolarsi dall'imitazione del numerario bizantino. È quindi opportuno concentrare la nostra attenzione sulla monetazione della Padania e della Tuscia, costituenti, come ormai mi sembra sia divenuta comune sentenza, il Regnum Langobardorum, propriamente detto. In questo regno longobardo, così delimitato, le emissioni monetarie durante la dominazione si sono susseguite numerose. La dottrina più recente ha individuato parecchi gruppi di monete, in parte riferentesi alla Padana, in parte alla Tuscia, in parte infine comune alle due località, ed è su questi gruppi, gli ultimi, che intendo svolgere la mia indagine, mettendo in luce quanto nelle singole emissioni si riporta al messaggio della tarda classicità e quanto di contro è espressione di un messaggio estetico nuovo, acerbo, immaturo, ma originale, che rappresenta il portato della mentalità del popolo invasore. Mi riporterò al proposito soltanto alla moneta d'oro, rappresentata, per quanto è a nostra conoscenza, esclusivamente dal premesse, perché sulla esistenza di una moneta d'argento, che pur dovette circolare, perché pur molto, non molto frequentemente menzionata nei documenti del tempo, almeno fino ad una determinata epoca, le nostre idee non sono ancora mature per poter essere espresse con quella convinzione che un'indagine di questo genere richiede. Un primo gruppo è rappresentato dalla prima monetazione dei Longobardi in Italia. Ha avuto luogo in Padania e deve essere iniziata subito dopo la conquista. È rappresentata da imitazioni dei tipi bizantini coevi o quasi di Giustiniano, Giustino II e Maurizio Tiberio. È una imitazione stilisticamente discontinua perché effettuata tanto dal re quanto dai duchi, massime nel periodo dell'interregno e presumibilmente fino all'emanazione dell'editto di Rotter che al capitolo 242 sancisce la regalia della moneta. Pur in tanta discontinuità, sono da ravvisare in questo momento delle caratteristiche comuni. Le leggende, pur presentando spesso qualche lettera del nominativo imperiale imitato, non hanno coerenza. Molto spesso queste monete presentano la particolarità di un tondello molto sottile, soprattutto molto largo, eccedente l'impronta del conio, onde la presenza di un ampio bordo anulare in rilievo che racchiude la figurazione come in una cornice. Esaminiamo una di queste tipiche monete che, per la sua caratteristica formale, direbbesi preordinata non a confondersi, ma a differenziarsi nettamente dalla moneta imitata. L'uno, ecco il grosso, il tondello molto largo, e la figurazione è quella delle monete bizantine di Giustiniano. La figurazione era chiusa dal doppio cerchio, quasi senza soluzione di altro spazio. Al diretto la raffigurazione è genericamente divisa in due parti dalla linea superiore del manto, una linea arbitrariamente astratta. L'effigie diademata è trattata a larghi spazi contenuti da globetti che descrivono e racchiudono la raffigurazione. Così una tecnica tipica si assomma ad un chiaro intento decorativo. L'impostazione è chiara ed evidente e gioca su dimensioni e spaziature geometriche. Nel complesso, una opera di oreficeria che indugia sui particolari a detrimento della visione d'assieme e denuncia l'astrazione geometrica dei preziosismi bizantini unitamente alla ricostruzione di un'immagine effettuata con mezzi nuovi e con intenti nuovi. Un secondo gruppo di monete longobarde riguarda la Tuscia. Caduta sotto il dominio longobardo intorno alla metà del VII secolo, la Tuscia inizia anch'essa la sua monetazione con l'imitazione dei coevi tipi bizantini. Ma siccome nel frattempo la figurazione del numerario bizantino era mutata, così anche figurativamente la prima monetazione della Tuscia si differenzia nettamente dalla prima monetazione della Padania. Non più quindi imitazioni di Giustiniano, Giustino II e Maurizio Tiberio, ma imitazioni di Eraclio e di Costantino II, recanti al rovescio non più la vittoria, ma la croce potenziata. Potremmo forse passare alla 2. Questa Queste nuove monete della Tuscia si differenziano è certamente difficile giustificare tanta difformità tra due regioni del regno, ma l'attribuzione di queste nuove monete alla Tuscia, dopo l'intervento chiarificatore del Grierson, è ormai fuori discussione. E giova pertanto ritenere che la Tuscia, con questa sua missione, abbia inteso mantenersi fedele ad una sua gelosa tradizione, forse secolare. Anche in queste nuove monete della Tuscia le figurazioni sono circondate da una pseudo-leggenda formata da lettere incoerenti, di cui ritengo vano indagare sul significato, essendo evidentemente assunte come puro elemento decorativo. Qui il bordo ristretto, il bordo ristretto vuole essere una limitazione piuttosto che una cornice all'immagine centrale che se ne avvantaggia, diventando più evidente e importante. Il rilievo del fondo è lieve nell'effigie in cui il profilo è come sottaciuto, mentre predomina il diadema con la sua doppia linea quasi circolare, un elemento caratteristico e distintivo, quasi un inconscio richiamo per l'attribuzione della moneta. Io non vedo qui da là e quindi non posso segnarvi, ma insomma dovrebbe essere in questa zona. Nel rovescio è da notare una sobria ricerca di chiarezza. La croce si inserisce nella cornice circolare della leggenda con un chiaro disegno lineare, e questa perlomeno la vedo bene anch'io. Il raffronto tra le prime monete della Padania e della Tuscia, soprattutto per quanto riguarda i rovesci, non è privo di interesse. Il valore logico e geometrico della croce in Tuscia è certamente più valido ed evoluto della pur ricca immagine della vittoria alata in Padania, con il suo tentativo di un ritmo figurativo infine puramente decorativo. Non è lecito, mi sembra, giudicare se l'una o l'altra monetazione sia più valida, perché il fattore soggettivo può giocare molto in un giudizio del genere. Mi sembra però possibile concludere che si tratta, pur nelle forti diversità formali, di una stessa monetazione, con caratteristiche tecniche similari ma con un'espressività diversa, ancora non chiaramente definitiva, probabilmente derivata da tradizioni locali preesistenti. Trascurando in questa rapida rassegna alcuni pochi esemplari anomali che sfuggono tuttora ad un preciso inquadramento cronologico e sulla cui autenticità sembra lecito nutrire dei dubbi, una terza emissione monetale ha luogo in Padania e si riporta ai primi anni del regno di Cuniperto. Questi, pur mantenendo nei suoi tre missi l'imitazione bizantina con al diritto l'effigie a destra e al rovescio la vittoria stilizzata di prospetto, appone il suo nome in tutte lettere su entrambe le facce della moneta. E questo è un momento importante della monetazione longobarda. Non è più lecito ritenere infatti che l'effigie si riporti a quella imperiale. Vediamo la figura del numero 3. Il volto è chiaramente definito come quello del re barbarico. Ogni soggezione, sia pur formale, all'autorità di bilancio viene chiaramente ripudiato. Questa è la figura di Cunibertro, il muso di Cunibertro, questa è la, diciamo così, che è la vittoria ad Alba. Si vedono le ali ma non si vede la vittoria. Da un punto di vista estetico si può notare, per quanto riguarda l'effigie, una evoluzione verso una nuova e diversa possibilità di rappresentazione. La tecnica non muta, ma è evidente la tendenza verso un disegno più continuo. L'annullamento dei drappeggi del busto riporta l'attenzione sul volto del sovrano. È sempre evidente che ci troviamo di fronte ad un'immagine regale, non a un ritratto. Il diadema è certamente più importante del profilo, trattato di fretta, benché sia chiaramente, direi troppo chiaramente, annotata l'arcata sopraccigliare, quasi che l'occhio rappresenti un simbolo o un marchio con un suo preciso significato. Io non la vedo, voi la vedete certamente, ma può darsi che sia come dice lui. No, effettivamente l'occhio è molto, molto sviluppato. Però qua si vede un muso, questo è un altro problema. Dunque, il rovescio porta una figurazione robusta e massiccia, tanto massiccia. Ed è strano che all'effigie astratta, ma indubbiamente umana del re, si applichi una modellazione tenua ed evanescente, mentre per l'immagine, pur sempre mitica della vittoria, si adotti una modellazione massiccia che accomuna in una certa grossolanità le ali, il drappeggio, il movimento, come in un rilievo continuo solcato da incisioni uguali e monotone, forse per la coesistenza di un ricordo classico con un nuovo messaggio che umanizza con elementare semplicità tutto quanto gli viene sottoposto ai fini della raffigurazione. Ho detto di fatto che quella era, si dice che è la vittoria perché lo dicono loro. Ancora alla Padania e allo stesso re Cuniperto, probabilmente negli ultimi anni del secolo e del suo regno, appartiene una quarta emissione longobarda, l'emissione regale per eccellenza, con un tremisse del tutto originale, recante con chiare leggende esplicative al diritto dell'effigie e il nome del re. Al rovescio l'arcangelo San Michele, protettore del popolo e della monarchia. Figura 4, il numero 4, ecco, qui abbiamo, benissimo, si vede benissimo, San Michele, quale? San Michele dalla parte inferiore, si vede bene, dalla parte superiore meno. Però notiamo, la colpa non è di San Michele, è dello scudo che è in braccio, che è lo scudo rotondo tipicamente longobardo. Oddio, ho perso il segno, dove sono arrivato? Ecco. L'introduzione nella monetazione del santo protettore rappresenta un unicum in tutta la monetazione barbarica dell'Occidente, una innovazione che avrà immensa fortuna nei secoli successivi e darà una comune impronta a tutte le monetazioni di interi secoli medievali. Una novità che si riporta, benché un riferimento diretto sia naturalmente da escludersi, agli albori stessi della monetazione, quando le città greche improntavano, in periodo arcaico e classico, la figurazione del loro numerario alle figlie costante della divinità patrona. La nuova bella, preziosa e raffinata moneta di Cuneiperto continuerà ad essere emessa dai successori Ariperto II e Liutprando con la sola variante del nome del sovrano e con modificazioni stilistiche non molto evidenti, sulle quali peraltro sarà il caso di spendere alcune brevi parole. Nel tremisse originale di Cuneiperto, un'effigie suntuosa ricrea felicemente il ritratto del re, emergente con la tecnica nuova da un fondo molto liscio. Viene costruita una vera e propria modellazione del volto con l'annotazione di una mascella forte, di un orecchio piccolo e di un occhio un poco oblungo. La mascella forte vorrebbe dimostrare come Cuneiperto fosse di grossa costituzione, tant'è vero che era riuscito ad ammazzare con un pugno un bisonte. Questo almeno dice Paolo di Argolo. Dunque, una felice umanizzazione sulla quale si innesta l'individuazione della regalità con la ricchezza sottolineata dell'abbigliamento, mentre la leggenda che circonda il busto crea nuovi elementi plastici di colorata ricchezza ed eleganza. Al verticalismo slanciato dell'effigie umana fa riscontro al rovescio la figura atticciata del San Michele, dalla testa robusta, ben modellato malgrado le piccole dimensioni, dalle ali solide, dai grandi piedi che sembrano accennare ad un pazzo, una figurazione elementare ma non priva di fascino, circondata parzialmente da una leggenda che si svolge in senso volumetrico con un intento di riempitivo più che esplicativo. Numero 5. Premesse di Ariperto II. È il numero 5 questo? Sì. Ripete i motivi plastici e iconografici di quello di Cuneiperto con la stessa curata modellazione del volto e la sontuosità decorativa del busto del sovrano. Ma questo busto è un poco più allungato per conferire maggiore imponenza al personaggio. L'abbigliamento è ancora più ricco e non è esclusa una certa espressività del volto, come una presenza aulica lievemente melanconica. Richiama qui l'attenzione la forma dell'occhio, eccessivamente grande ed obliquo, abnorme e impegnativo. Ma doveva vedere tutto il regno. Siccome per gli elementi sopra elencati una incapacità dell'incisore del conio sembrerebbe da escludersi, non è forse da chiedersi se questo occhio, per le sue eccessive e maldestre dimensioni, non abbia ad assumere un significato particolare a noi ignoto? Beh, l'occhio del sovrano che domina e che vede tutto il regno. Al rovescio il San Michele dovrebbe essere gradiente verso sinistra, ma i robusti piedi indicano piuttosto una posizione stante. Le ali pesanti non accennano ad alcuna lievità. Lo stesso drappeggio grossolano non indica alcun movimento. La figura estremamente umanizzata non ispira né reverenza né promana una particolare dignità e può essere indicativa di una mentalità barbarica usa ad applicare ad un mondo ideale visioni del tutto realistiche. Ora, il fatto che i piedi mostrino, cioè che la figura sia voltata e che i piedi invece si mostrino quasi come ortogonali al movimento, è una caratteristica, mi pare, della scultura longobarda. Noi lo troviamo per esempio nell'ara di Ratti di Cividale, dove effettivamente le figure sono sempre voltate rispetto alla posizione dei piedi, che sono stanti, o viceversa, i piedi possono essere voltati, possono essere gradienti, e le figure invece sono messe di fronte in una forma tipicamente statica. Mentre messe con San Michele di Otranto, la figura 6, che è questa? Sì, perché io non la vedo. L'effigie regale non presenta caratteristiche fisionomiche evidenziate, benché il volume della testa sia trattato con sottile modellazione e il profilo, disegnato più che modellato, richiami l'attenzione come zona di riposo. La leggenda fa corpo nella composizione, chiaramente ed elegantemente inserita nel largo bordo che la circonda. È anche qui alla fantasia ben realizzata, con una certa raffinatezza del diritto, corrisponde al rovescio una figurazione di San Michele robusta e alquanto elementare. Non resta che rilevare un'altra volta la differenza di tecnica adottata per il diritto e per il rovescio. Tecnica decorativa, lieve, frastagliata in particolare per la persona umana, massiccia e orientata a solidi criteri plastici per il personaggio divino. Un'incongruenza ai nostri occhi, che forse può trovare una giustificazione nell'impiego contemporaneo di due incisori di conio della diversa mentalità e sensibilità. Oh, adesso mi bevo un bicchiere d'acqua perché... Queste tre monete sulle quali ci siamo intrattenuti sono veramente indicative della ricerca di un equilibrio fra la descrizione della regalità e una plastica adatta alla solennità regale. Parrebbe che Cuniperto abbia raggiunto una visione esatta di raccordo tra le due tendenze, perché il suo è veramente il ritratto di un re e il disegno aiuta un'attenta modellazione dai piani larghi appena interrotti da lievi particolari quali il drappeggio, l'armilla e il diadema. Con Ariperto l'effigie del sovrano accusa una riduzione delle proporzioni, benché le caratteristiche caratterizzazione permanga eccellente e la grazia decorativa applicata ai particolari sia ancora contenuta in limiti di logica aderenza alla regalità rappresentata. In sostanza, la diminuzione di proporzioni dell'effigie è da imputarsi al maggior spazio accordato alla leggenda nelle sue varie componenti. Con Liutprando, gli elementi decorativi tradotti in linee e globetti prendono il sopravvento. L'effigie diventa più ricca e sontuosa, ma la sua caratterizzazione si annulla nella complessità della raffigurazione, dove l'elemento plastico, la modellazione stessa, prima tanto sensibile e attenta, si cancella progressivamente fino a far corpo con il piano del fondo. Siccome questa evoluzione logica sembra accompagnarsi ad una involuzione della capacità tecnica di esecuzione, non fa meraviglia che a questo punto il ritratto venga abbandonato nella monetazione e sostituito da un monogramma che presenta ben minori difficoltà di resa. Mentre nella Padania per una sessantina d'anni permaneva immobilizzato il tipo descritto ai frigi del re e San Michele Stante, nella Tuscia si susseguivano due missioni. Superata, presumibilmente verso la fine del secolo VII, l'imitazione dal numerario bizantino, le città semiautonome, Lucca in particolare, adottavano un nuovo tremizio originale, figura 7, recante al diritto un monogramma, cioè col nome della città, al rovescio la croce potenziata circondata dalle lettere vivi, più volte ripetute, talora punteggiate, assunte evidentemente come elemento decorativo, oppure da dotti, oppure sbarrette orizzontali. Questo tremis è certamente uno dei prodotti monetari più interessanti della sua età. Il monogramma del diritto raffinatissimo e improntato a una chiara, lineare semplicità geometrica, ad un puro astrattismo abbinato ad una vivace fantasia compositiva, disegnato con un ritmo eccellente, con linee di vera eleganza che trova nel nostro stesso gusto di uomini moderni una immediata accettazione, così il rovescio non stona al confronto per la sua sobrietà lineare. Sono c'è una ripresa evidentemente di classicità, soprattutto nel diritto. La seconda missione della Tuscia, di cui i documenti d'epoca denunciano l'introduzione dall'anno 730, gli stellati, si rivolge ad una nuova figurazione destinata ad avere una vasta fortuna. Mentre il rovescio del tremisso permane inalterato, con la sua croce potenziata, contornata, figura 8, in particolare da una pseudo leggenda composta dalle lettere vivi più volte ripetute, al diritto appare il nome della città, Lucca, Pisa, Pistoia e altre località che restano ancora da individuare, precedute dall'epiteto Flavia, circondante una stella a sei raggi, gli stellati lucchesi che sono ben noti dal codice diplomatico longobardo. Sono questi evidentemente i tremissi stellati più volte menzionati dalle carte a partire, come detto, dal 730 fino alla fine della dominazione, mentre l'epiteto Flavia comporta problemi di interpretazione che non si possono ancora definire risolti. La parte figurativa si presta a rilievi di un certo interesse. Anche qui ci troviamo di fronte ad una figurazione nuova che non trova riscontro in nessuna monetazione dell'epoca né in altre precedenti. La composizione si indirizza ad una forma geometrica quasi astratta che preclude ogni ricorso alla fantasia, quasi si sia chiarito d'improvviso, in senso veramente nuovo, la possibilità documentaria dell'immagine monetale. Da rilevare anche come la leggenda del diritto, con le sue chiare lettere ampiamente campite, determini un indirizzo originale nella parte epigrafica della moneta. Intorno alla metà del secolo VIII, dopo una maldestra e non ancora chiarito, dopo un maldestro e non ancora chiarito tentativo di Ildebrando e di Ratchis durante il suo primo regno di continuare il tipo tradizionale, l'effigie del sovrano viene abbandonata. Astolfo, mantenendo a rovescio nel suo tremissi San Michele Stante, instaura al diritto una figurazione nuova, adottando un complicato monogramma, il cui scioglimento, malgrado le numerose proposte da parte degli studiosi, non può ritenersi ancora accettato. Siamo, eccolo qui. Ma la lettura dei monogrammi è sempre un rebus, peggio delle parole incrociate. Che si tratti di un vero e proprio monogramma e non di una visione puramente fantastica, è dimostrato dal fatto che alcune lettere di continuo ricorrenti sono certamente presenti, ma è indubitabile che nella mancanza assoluta di ogni altra documentazione lo scioglimento di monogrammi tanto complicati come è ben stato rilevato non potrà mai dar luogo se non ad ipotesi e congetture. Questo monogramma, da un punto di vista estetico, ha certamente una sua eleganza, mentre San Michele al rovescio è un'immagine spessa e rozza, alquanto confusamente resa. Il nuovo tipo figurativo si manterrà inalterato con Rackis nel suo breve secondo avvento al potere e con Desiderio all'inizio del suo regno. Ancora con Aistolfo in Tuscia, il nome del re appare sui tre missi stellati delle città semiautonome. Così, questi ora presentano su una faccia la solita leggenda Flavia, col nome della città, e figura 10, ma soltanto Lucca e Pisa, circondante la stella a 6 raggi. Sull'altra faccia il nome del re che circonda la croce potenziata. Questo nuovo tremisse rappresenta la naturale evoluzione dello stellato anonimo, ma qui il rapporto geometrico e dei vari elementi compositivi si dispiega, secondo lo schema noto, con una più chiara logica, con una migliore raffinatezza. Il numerario longobardo, con questo suo nuovo apporto, rientra ormai nell'ambito di una monetazione facilmente decifrabile e distinguibile, sostanzialmente inconfondibile, senza possibilità di equivoci. Non è quindi da meravigliarsi che sul finire del suo regno Desiderio abbia introdotto anche nella Padania questo nuovo tipo monetale con il nome di numerose località. 11 e poi 12 sono gli stellati di Desiderio, con il nome delle zecche, zecca di Treviso, Seprio, Pavia e via di seguito. L'altra, questa è la numero 12. Ecco, bene, allora andiamo avanti. Mantenendo il rigoroso equilibrio geometrico, ma conferendo alle lettere della leggenda una tipica caratteristica grafia, non sottile, ma corposa, che conferisce loro un netto spicco e le rende di chiara e facile lettura. Questa monetazione di stellati in Padania propone numerosi problemi, primo fra tutti il valore e significato dell'epiteto Flavia, accordato a numerose località, non tutte chiaramente identificabili, che non possono essere affrontati e neppure impostati qui, in quanto esulano dal nostro tema. Ma sarà utile rammentare che la soluzione figurativa da essa proposta verrà ritenuta valida anche al di fuori del regno, come dimostrato dal fatto che Carlo Magno l'adotterà senza riserve, modificazioni di rilievo al suo avvento conquistatore in Italia e ne continuerà per qualche tempo l'emissione, che verrà smonetizzata soltanto quando entrerà in vigore la riforma al monometallismo argenteo. È logico, è una chiosa mia, è logico che Carlo Magno nel primo periodo del suo regno in Italia abbia continuato, come del resto ha continuato anche nella organizzazione territoriale, nella legislazione, eccetera, il momento longobardo, in quanto Carlo Magno si considerava legittimo Rex Langobardorum. Quindi, come Rex Langobardorum, doveva, in un certo senso, mantenere la situazione che aveva trovato al momento della sua discesa. Nessuna indagine, anche la più frettolosa e sommaria, sull'evoluzione figurativa della monetizzazione dei Longobardi in Italia potrà mai prescindere dalla emissione che Astolfo ebbe a Bastra Ravenna tra la primavera del 751 e l'autunno del 753, la figura seguente, numero 13, che è del tutto abnorme. Non solo l'interesse storico di questa monetazione ravennata, di questa è eccezionale perché documenta la caduta dell'ultima testa di ponte di Bisanzio in Occidente, ma è eccezionale è anche il suo interesse iconografico, perché essa ci offre unico documento dell'epoca, il ritratto veristico di un re barbarico della metà del secolo VIII, brutto, poverino. Qui ci troviamo di fronte ad una serie completa, composta dai tre nominali d'oro, solido, semisse, tremisse, da un nominale di rame e forse anche da un nominale d'argento, con la quale il re Longobardo, rompendo con la tradizione, dichiara una deliberata volontà di sostituirsi all'autorità imperiale in Italia. Troviamo di fronte del pari ad un vero ritratto, perché mentre le differenze di stile e di esecuzione denunciano chiaramente che i diversi nominali sono opera di diversi incisori di conio, il raffronto tra le diverse soluzioni stilistiche adottate dimostra che tutti questi incisori si sono rifatti ad un unico modello, alla stessa faccia dai tipici capelli incollati, quei capelli così ben descritti da Paolo Diacono, capillo sa face usque ad ossa dimisso saventes, quos in utramque parte simprontis discrimine divideban, dalla gran barba fluente, dagli occhi globosi, dai baffi imponenti. Qui però ci sarebbe anche da fare un'altra osservazione. Queste monete ravennate di Astolfo, che si staccano completamente dal mondo longobardo, si richiamano però a un tipo di monetazione bizantina, e cioè quella di Giustiniano II e di quei imperatorelli che sono passati a Costantinopoli fra il 702 e il 710-715. Eccezionale in questa serie, oltre all'interesse storico e a quello iconografico, anche l'interesse estetico, perché qui si adotta una tecnica ignorata dalla contemporanea emissione tanto bizantine quanto barbariche. Mentre a Bisanzio, infatti, prevale la monotona ripetizione di un disegno appena rilevato dal fondo, la fredda unicità di immagini puramente decorative, e nella stessa moneta longobarda il rilievo si attutisce fino a fare corpo con il fondo del campo e tende a diventare un graffito, qui si accentuano le caratteristiche del volto umano, se ne colgono i tratti peculiari con fresca vivacità, si riscoprono ad un tempo tanto le potenzialità volumetriche insite in un tondello monetale, quanto, in termini più generali, i valori plastici in se stessi come soluzione di un problema di individuazione più aderente al vero. Però, come dicevo, bisogna tener conto della monetazione di quegli imperatori che intrusi, diciamo, durante il periodo dell'impero di Giustiniano II Rinotmeta, che hanno precisamente queste figurazioni. Sono soltanto le effigi che interessano gli incisori, che gli incisori vogliono far risaltare. Chi siano questi incisori di conio è difficile determinare. il fatto che rifiutano la facile soluzione delle figli note e ripetute, delle tecniche collaudate e assimilate, che ricercano valori nuovi, chiari prova della loro genuinità, inducono ad escludere che si tratti tanto di bizantini quanto di longobardi. Parrebbe quindi legito congetturare che siano esponenti di una scuola locale sopravvissuta alla progressiva decadenza decadente essa stessa ormai inesperta per la lunga desuetudine, ma ancora aperta tanto al messaggio dei canoni classici quanto alle aspirazioni artistiche dei popoli barbarici. Una scuola che trovò, nella parentesi a Istolfina, l'occasione fuggevole di esprimere i suoi intendimenti, e nessuna altra ebbe per le contingenze dei tempi, e si estinse poi ignorata nella pianificazione carolingia. Concludendo con una breve osservazione di sintesi, dirò che da quanto sono venuto esponendo, la monetazione dei Longobardi in Italia si manifesta, in confronto con le altre monetazioni barbariche coevi, di un'accuratezza e di una raffinatezza sorprendente. È bensì vero che tra gli storici è costume affermare che questa monetazione è quanto di più rozzo, di più barbaro si possa immaginare, ma è evidente che questi studiosi non hanno mai avuto tra le mani una qualsiasi moneta longobarda. È bensì vero altresì che si suole affermare che quella di Cuniperto nei suoi tre messi è una effigie mostruosa. Ma allora con che aggettivo definiremmo le effigi monetali del tutto contemporanee dei re Visigote, Edvigi e Vamba? Figure 14 e 15 sono i rebus delle monete visigote. Chi capisce qualche cosa è bravo. Passiamo all'altra. Io non c'ho colpa, Non si sa bene se sia un somaro o se sia un uomo, ma insomma. La raffinatezza e accuratezza del numerario longobardo è costantemente accompagnata da una schietta innegabile originalità. In Italia i longobardi non cacciarono, come spesso accade altrove, un precedente invasore, ma si sovrapposero, coesistendovi, ad un popolo decaduto. Di antica e altissima civiltà. I Longobardi portarono un messaggio estetico nuovo e questo linguaggio del conquistatore si incontrò con quello del popolo conquistato. Da questo incontro, che spesso fu uno scontro, nacque la monetazione. Quanto sono venuto esponendo per le singole serie monetali non è che il portato di questa duplice tendenza della coesistenza dei due diversi messaggi, ora convergenti, ora coesistenti, ora tra loro in deciso contrasto. Il risultato fu che la monetazione non cadde nell'immobilismo bizantino, ma neppure nel grottesco astrattismo tipico delle monetazioni barbariche. E questo è un punto di vista dal quale questa nostra monetazione non è stata ancora valutata e studiata, ma meriterebbe di esserlo.